2000 giorni dal 2000 la penna che brucia ancora. Ancora macchie di sangue su di un brandello di fottuta storia. Chiuso in casa ed il telefono non suona. Hai mai visto tuo fratello che ritorna ed è un'altra persona? Quando cammini per le piazze note sei solo tu e guardi facce nelle foto che non ci sono più. Alcuni passano tre giorni e non li riconosco. Ho scritto una lettera a Dio da un po' ma non mi ha mai risposto. Inoltre sopra il tram mentre ingoio inchiostro. Fuori strada assolata e qua dentro Mosca, Vladivostok. Resto in questo posto con i miei concetti. Di locali sgobano il costo dei miei concerti. L'aria che non basta ad ispirarmi. Notte esaurite sugli esagrammi. Graffito stonale e carni. Fumo questi anni e la fottuta storia. E che bello dopo il morire vivere ancora. Sei anni dopo queste lune, questi soli, queste notti che li sento tutti qui. Sei anni dopo questi sbagli, questi tagli, questi incontri, tutti questi addii. Sei anni dopo che ho perso queste lancette di un tempo che ti mantiene ma ancora non promette. Ci ho messo troppo a svegliarmi e chi mi sente sa sempre dove trovarmi. Io sono pronto ad alzarmi se chi mi sente vorrà sempre trovarmi. Ci ho messo troppo a svegliarmi e chi mi sente sa sempre dove trovarmi. Ci metto troppo a cercarmi e chi mi vuole sa sempre dove trovarmi.